Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 23 20 033. Rockwave, l'onda del rock. Buonasera a tutti, buonasera da Rockwave, ennesima puntata del mercoledì. Stasera abbiamo una voce femminile, abbiamo Cinzia Fontana, una cantautrice, una interprete padovana, vero? Buonasera, sì, Cinzia. Buonasera, buonasera a voi. Che è accompagnata dal suo chitarrista, Paolo? Stefano Zarantonelli. Ecco, non Paolo, Zarantonelli. Molto bene. Ok, parliamo allora di questo progetto, perché c'è un progetto Cinzia Fontana. Sì, allora il progetto è nato circa 6 anni fa. Dall'incontro con il mio produttore che si chiama Claudio Corradini, che è qua vicino, che, sì, beh, che gira, è qua in giro, sta, qua in giro esattamente. Sta ispezionando tutta la radio. E niente, praticamente ci siamo sentiti tramite un amico e io sono andata da lui per fare un provino che teoricamente era destinato a un ritorno di Mina. E questo, cioè, un brano pezzo di Mina era praticamente. Praticamente il mio produttore. Dimmi, raccontami come è successo. Allora, il mio produttore era uno dei 10 in esclusiva che scriveva per la Sugar di Milano, per, sì, la Caselli. La Caselli. E sì, quindi la Caselli gli aveva commissionato un brano che era destinato a Mina, perché si parlava di un ritorno di Mina in quel periodo. Intorno al palcoscenico praticamente. Sì, al palcoscenico, anche perché da moltissimi, sì, anni. Penso, che non, sì, sì, moltissimi anni, da quando Battisti ha deciso di andarsene via, anche lui, anche Mina. Anche fatto Mina, così. Sì. Quindi non è più ricomparso. Esattamente. Quindi io sono stata chiamata a fare un provino, chiaramente ero una delle tante voci che il mio produttore ha ascoltato, mi ha sentita cantare, a metà canzone mi ha fermato, mi ha chiamato in regia, io pensavo dovesse farmi delle riprese, degli appunti, così su come avevo eseguito la canzone, invece mi ha chiamato e mi ha detto: senti, io questo brano non lo do alla Sugar, non lo do per Mina, con questo brano, se tu sei d'accordo, facciamo un lavoro insieme, facciamo un progetto. Progetto insieme. Benissimo. Ed è nato così, Fotosintesi praticamente. Che è l'album, il titolo dell'album. Che è l'album. Questo brano è Solo per amore, che poi, cioè, proprio, avremo modo di ascoltare, sì, dal, quindi, disco. Quindi è partito, l'input è partito da questo. Sì, da questo. È stato un incontro felice e fortunato. Io già cantavo da parecchi anni, perché ho iniziato a 14 anni con mio fratello. Che ho letto che nella tua biografia, tra i Pink Floyd, i Dire Straits, sì, cioè, una colonna sonora interessante, secondo, sì, me. Sì, casa, sì, tua facevano sentire delle musiche interessanti, sì, sì, sviluppavano cultori musica, della musica, italiana e internazionale, e sì. Hanno praticamente, tu hai scovato, hai cercato, hai sviluppato determinati orizzonti. Certo, musicali. Certo. Sono stata sicuramente fortunata anche ad avere una famiglia così, perché mio padre ascoltava buona musica, mio fratello è cresciuto anche lui con i cantautori italiani. Certo. E infatti questa sera poi ascolteremo. A proposito di cantautori, tu nel disco hai preso due pezzi molto difficili, secondo me, perché lì, sì, è un pezzo assolutamente difficile, un pezzo Venditiamo, ma è difficile di eseguirlo da parte di una, sì, persona che non è Venditti. E poi anche il pezzo di De Gregori, un altro pezzo difficile, complesso, importante, da un album, sì, meraviglioso, ma capito poco. Non conosciutissimo, non conosciutissimo probabilmente. Anche. E poi è ripreso, che non c'è nel disco, un pezzo di Endrigo è ripreso. Sì, ho fatto. Vedi, io chiamo, mi sono salute. Informato bene, ho cercato, sì, di capire, sì, ma sì, è interessante. Sì. Ma poi ne parliamo, abbiamo tempo per parlarne. Ok. Andiamo, cosa dici? Ad aprire la finestra, sì, sul tuo disco. Abbiamo scelto, okay, il primo pezzo. Sì. Che è un singolo praticamente. Esattamente. Singolo d'apertura. Io l'ho definito un disco, un pezzo abbastanza vicino alla dance, ma lo sviluppa la dance. Sviluppa la dance. Cosa, sì, cosa ne pensi? Sì, credo di sì. Che poi di questo brano ne è stata fatta una versione da 8 mix, che è esattamente importante. Esattamente, che poi alla fine del disco c'è. Certo, sicuramente. Ci sarà, cioè la versione del mix. È un brano molto fresco, molto, molto moderno, secondo me. E infatti ha avuto un buon riscontro, sì, in radio. È andato un po' in tutta Italia, in tutte le radio d'Italia. Ho fatto parecchie interviste, ho fatto TV con questo brano. È una bella finestra, ha aperto bene il tuo, sì, album. Sì, sì. E poi descrive soprattutto un lato del mio carattere, cioè la caparbietà. Perché, benissimo, infatti il brano si chiama Caparbia. Esatto. Blu Radio Veneto Rock. Vorrei parlare d'amore. Ma cosa posso dire se vedo solo il niente? Sono caparbia allora, provo a guardare bene, ma proprio molto bene. Mi sento quasi male perché si vede poco, anzi a dire il vero, non vedo proprio niente che più scura la vista. Li tolgo e quello che vedo è solo un niente più chiaro. Sono caparvi allora, provo a guardare bene, ma proprio molto bene. Mi sento quasi male perché si vede poco, anzi a dire il vero non vedo proprio niente che possa valere la pena di essere cantato, di essere cantato. Lai, la, lai, la. Sono caparvi allora, provo a guardare bene, ma proprio del rock. Diretta rockway.alterdista.org, ci potete vedere e sentire stasera, grazie alla Cinzia, grazie a Stefano. Poi svilupperemo il discorso di questo album. Ringraziamo la nostra redazione, tutta al femminile, quindi la Silvia, la Nicoletta e la Patrizia che ci ascoltano. Abbiamo una redazione femminile, il Rockway è una redazione femminile e chiaramente fantastico. Michele Tosò, il grande in regia, e Roberto Baldi che cura sempre le telecamere. Sta curando bene, cosa dici Michele? Ok, vai Cinzia, parliamo di questo pezzo. Allora, lo sviluppiamo meglio. Caparbia è un brano chiaramente che ho scritto insieme al mio produttore Claudio Corradini, appunto parla... Che non vuole parlare, ha detto che non parla. Che non vuole parlare. Che non vuole parlare. Anche se vuole. Avrebbe sicuramente per tante esperienza cose da dire. Molte più cose da dire di me sicuramente. Caparbia è nato, non è stato uno dei primi brani a nascere di questo disco. Diciamo che è stato uno degli ultimi, però è stato... il primo brano ad essere lanciato, proprio perché ha questa freschezza, come sì. dicevo prima, questa modernità di suoni. Sì, come, questa, esatto, questo... hai detto una cosa giusta, modernità di suoni. Sì, sviluppiamo questo... il suo discorso di modernità di questa suoni. Questa sfumatura sì. dance, no? Questa... Esattamente. C'è tutta... Allora, io chiaramente non ho eseguito l'arrangiamento, quindi posso dire quello che percepisco e che sento anche quando canto il pezzo, che... un brano che assolutamente mi rappresenta e che ha delle sonorità che sicuramente si rifanno anche agli anni Ottanta. E infatti il mio produttore ha lavorato, ha scritto tantissimo per artisti degli anni Ottanta e ha lavorato con Righeira, ha lavorato con Spagna, con Donatella Rettore, che poi ho avuto anche il piacere di incontrare e di conoscere io, perché siamo stati a Cavallino Tre Porti il 4 ottobre. Avete fatto un concerto. Abbiamo fatto un concerto per questi abitanti di Riese Pio X, sì. di Vallà, perché c'è stato un uragano terribile, certo, sì. a giugno. Abbiamo fatto questo concerto così... attivi, siamo attivi anche questo nel filtro, sociale. Questo input, questo collegamento con gli anni 80, 80. Sviluppato nel 2009 sì, sicuramente. E, ecco, io credo che sia un brano dove parecchie persone si possono ritrovare, perché la caparbietà bisogna averla al giorno d'oggi, perché... ecco, è una dota importante, sì. andare avanti, non avere coraggio avere coraggio di andare, avere coraggio è certo, cosa avere coraggio, non mollare e credere soprattutto nei propri sogni, nelle proprie aspettative, certo, poi è importante averle, non fermarsi, non accontentarsi, quindi, come dicono tanti. Hai detto, credi nei propri sogni, nelle aspettative, quindi il tuo sogno, l'aspettativa di incidere un album. Sì, beh, arrivato, adesso stiamo già lavorando al prossimo, al prossimo album. Questo dobbiamo iniziare a promuoverlo, diciamo, a partire da dicembre-gennaio attraverso una tournée. Infatti ho già i musicisti, Stefano, il chitarrista. Uno dei tanti musicisti. Uno dei tanti, poi ho due fratelli, Piovan, sono Alessandro e Francesco Piovan, che sono un pianista e un contrabbassista e un batterista. Benissimo. E di Padova anche loro, bravissimi, hanno suonato con Nannini, hanno Grignani. Contribuito anche al disco loro praticamente. In alcuni, ci vuoi ricordare i musicisti del disco? Musicisti del disco, beh, sicuramente Stefano Zarantonello, la chitarra. Qui davanti, che fra poco darà la mano fondamentale per portare avanti il discorso live. Ok, poi c'è un altro chitarrista che si chiama Davide Fortunati, che adesso è in America e sta studiando cinema lì. Ho capito. Poi altri chitarristi, sicuramente Incaparbia Remix, hanno eseguito una parte in Liverpool, diciamo. Ho Alessandro dei vecchi Luna Pop. Il chitarrista dei primi Luna Pop. Ha eseguito Incaparbia Remix per me. Benissimo. Ecco, diciamo... Questo. Poi nel tempo sicuramente si avrà modo di lavorare sempre con più persone. Certamente. E questo, però la cosa che cerchiamo di tenere salda io e Claudio è quella di trovare un gruppo che sia un gruppo che ci accompagni, che sia una famiglia che ci accompagna nel nostro percorso con questo disco e con i prossimi dischi, che sia come per dire i grandi gruppi che accompagnano Franco Battiato, no? Che sono sempre quei musicisti per anni. E poi parliamo anche del discorso che tu hai avuto con Franco Battiato e con Giusto Pio, che è il produttore artistico, possiamo supervisore artistico. Passiamo al secondo pezzo che hai scelto, allora la traccia numero 5, mi pare. Sì, lo sai che c'è il mio secondo singolo, che è partito da settembre di quest'anno in radio. È abbastanza fresco. Abbiamo realizzato anche un bellissimo video insieme a Davide Fontana, che è mio fratello, che si occupa di video. Perfetto. Anche qui ha fatto anche la copertina tuo fratello? No, la copertina è stata realizzata da Ernesto Romano, che è un fotografo, sì, che fa mostre in tutto il mondo e ha abbinato questa passione della botanica. Sa di primavera, posso dire questo? Sì, è vero. Lui praticamente ha la passione per la botanica e per la fotografia. Ha abbinato le due cose. Il disco si chiamava Fotosintesi. Pensato bene di coltivare degli anemoni, certo. Sono i fiori del vento, gli anemoni. Li ha poi col Photoshop, ha fotomontati, come dire, sui miei capelli, e ha realizzato questa forma di donna albero, donna giardino. Ecco, quindi lo sai che c'è, il prossimo brano. Perfetto, adesso lo settiamo assieme allora. Volentieri. Blu Radio Veneto Rock. Blu Radio. Lo sai che c'è, che io sto bene senza te, che mi vuoi bene, o almeno è quello che dici. Mettiamo in chiaro che mi piaci, ma senza te mi sento bene. Capisci che sto proprio bene, e non pensare che sono sola. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 2320 033. Rockway, l'onda del rock. Eccoci qua. Silvia, adesso allarghiamo il discorso su questo pezzo. Come è nato, come hai sviluppato? Hai già dato l'input prima, però lo allarghiamo un sì, pochettino. Sì, allora, lo sai che c'è, appunto è un pezzo che abbiamo sempre scritto insieme. Il secondo singolo. Il secondo singolo, sì. E parla di questa conflittualità, di un rapporto amoroso. E praticamente il testo dice, ma lo sai che... Cioè, il concetto è questo, no? Quando c'hai una persona vicino e la ami, a volte ti dà anche fastidio averla, sì. Cioè ti stanca dopo, esatto, un po' che sì. Ce l'hai. E quindi vorresti che andasse a farsi un giro. Quando non c'è, ti manca. È insomma, è un combattersi di continuo con questa sì. Cosa interiormente. Però il testo alla fine dice, lo sai che c'è, la verità è che senza te sono sola. Certo. E niente, abbiamo realizzato un video bellissimo, perché anziché essere un personaggio, un essere umano, diciamo, il mio ipotetico fidanzato è un cane nel video, quindi un cagnolino addestrato, uno schnauzer nano, e abbiamo realizzato questo video nel giardino di casa mia, e è stata costruita tutta una sceneggiatura, una casa di cartone finta con il forno, il frigorifero, il tavolo, e poi c'era il letto, la camera da letto, la specchiera, il bagno con la doccia, e praticamente il video racconta di me che mi preparo per incontrarmi con questa ipotetica persona che poi alla fine si rivela essere un cane, che arriva, viene a cena a casa mia e io gli canto, lo sai, la verità è che senza te sono sola. E quando gli dico questa frase qui, il cane salta giù dalla sedia, mi viene in braccio e mi comincia a dare tanti baci, insomma, questa è la storia. Questa è la storia. Quindi un amore incontrollabile, fortissimo. Musicalmente come lo possiamo definire questo pezzo? Lo sai che c'è... È un pochettino leggermente diverso dal pezzo sì, che abbiamo sentito. Beh, prima. Ogni pezzo di questo disco, di questo mio brano, si distingue. Non saprei... Dal punto di vista delle date, è vecchio e nuovo questo pezzo? Ma il disco è tutto molto anni 80. Ah, tutti molti anni 80. Molto, secondo me... No, come concetto, quando è venuto fuori, quando sono venuti fuori questi pezzi? Questi pezzi? Dal punto di vista proprio... No, no, questo brano, credo... Tre anni fa. Sono d'accordo il discorso di impostazione degli anni 80, non volevo sapere quando è nato. No, proprio. Ho perso un po' perché sono passati parecchi anni, no? È molto tempo che ci lavoriamo. Poi le abbiamo riviste nel tempo le canzoni, le abbiamo riarrangiate, ricantate, certo. Perché poi col passare del tempo cambiano anche le sonorità che vanno. Chiaro. Per cui bisogna adattare il lavoro perché sia il più moderno possibile, il più fresco, il più raggiungibile alle persone possibile, quindi è stato rivisto tante volte e adesso un po' di confusione sulle date. Una cosa che chiedo spesso alle band che vengono qua: che difficoltà c'è un artista emergente a fare un album? È una difficoltà nel tuo grande. Caso anzitutto, ha trovato il produttore che è qua davanti che non vuole parlare però... Sì. No, diciamo che anzitutto per fare un disco ci vogliono le idee, quindi soprattutto quelle per primo, e quelle non piovono dal cielo, no. Però quelle si costruiscono, si ampliano, esattamente, bisogna averle buone, bisogna averle che si possano adattare anche quei tempi che corrono, che comunque rappresentino la maggior parte delle persone, anche certo. il vissuto delle persone. E poi bisogna vestire l'idea con delle sonorità e degli strumenti che siano... Tanto si devono adattare alla tua voce, questo è... Assolutamente. Quello è importante. Assolutamente, quindi bisogna studiare la tessitura, capire la tonalità. Ecco, bello il discorso, studiare la tessitura, a me interessa molto questo sì. Questa descrizione, studiare la tessitura. Studiare la tessitura, cioè capire la tonalità e capire... Perché la gente che è fuori non può capire... Quanta difficoltà, quanta sofferenza dal punto di vista fisico per trovare un pezzo, per descrivere, per andare avanti in un percorso. No, sembra una cosa facile. No, non è una cosa facile. Invece è una cosa molto complessa. E il nostro è stato, quello mio insieme a Claudio Corradini, è stato un lavoro quotidiano per 6 anni, quindi abbiamo avuto davvero il tempo di conoscerci, di studiarci e di confrontarci con tutte le nostre, con tutte le idee che avevamo, insomma, e di metterle insieme per capire qual era la soluzione migliore affinché la mia voce e le nostre idee potessero arrivare. Non credo sia solo una questione di... credo anche lo spessore della voce, il corpo della voce, i bassi, gli alti, i medi, com'è la voce. per dare la giusta presentazione, diciamo, della voce, bisogna tener conto anche di queste cose, e quindi anche bisogna studiare gli strumenti, magari far spiccare gli strumenti di più in un certo punto, altri meno in quel punto, certo. Sì, è tutto un gioco di equilibri, filtrare tutto quanto. Ecco, sarebbe bello che lui potesse parlare di queste cose, perché la persona sto tentando disperatamente. Ecco, adesso si sta avvicinando, ecco. Perché è giusto che il produttore parli di questa roba. E scaldiamo un po' l'atmosfera anche. Esatto, dobbiamo scaldare l'atmosfera. Così arriva un po' di esperienza anche a dare sostegno a un percorso che è iniziato da 6 anni. Qualche giorno fa. Da 6 anni. Ecco. Ecco. Lui è Claudio Corradini, molto ve lo presento. Piacere, buonasera a tutti. Allora, stavamo parlando appunto di come va studiata la voce, di come è un'operazione si presenta. Estremamente complessa e delicata, che purtroppo, e lo dico purtroppo con estrema sincerità, appartiene a pochi, nel senso che pochi applicano metodologia, lavoro, ricerca. Fanno una canzone, la provano un po' di volte, gli piacciono, fine. Io quando iniziai proprio da ragazzo andavo a Milano e andavo da Mara Maionchi con i miei provini. X Factor, Doce. X Factor. E Mara Maionchi è decisamente, come posso dire, tra le più importanti discografiche in Italia. È davvero. Lei ha grande talento nel riconoscere i talenti. Portavo le mie cose e lei mi diceva: bello, è una bellissima idea, manca il lavoro. E io dicevo: ma come? Manca il lavoro. Ci ho lavorato un mese a questa canzone, manca il lavoro. Esatto. E ci ho messo molti anni a capirlo. Mancava il lavoro. Molti confondono il brano, la canzone, con l'idea. L'idea è una cosa, il lavoro è un'altra. E allora lì comincia lo studio degli arrangiamenti, la ricerca, i colori, la tessitura, l'altezza, ecco, le variazioni. Vedi che siamo arrivati. Ecco. Quello era importante. È un lavoro monumentale, ma che tra l'altro, come posso dire, non appartiene nemmeno ai musicisti esecutori. È una condizione che esula da loro. Ognuno sa, per esempio Stefano conosce bene la sua parte, certo. Esegue quello che gli dici di fare, oppure ti propone, ma finisce lì. La condizione dell'orchestrazione nel suo globale è un'operazione di estrema complessità, di estremo rigore, di molto molto lavoro, di ricerca, di disciplina e di costanza fondamentalmente. Tutto questo viene applicato a un singolo episodio, che è un'idea che poi si elabora e che deve andare a vestire, a valorizzare una voce e il suo carattere interpretativo. Perciò è un lavoro davvero molto molto delicato e molto lungo. Ascolti 3 minuti di canzone e la gente dice: ah, 3 minuti di canzone, bella, carina, eccetera. Ma cosa c'è dietro? C'è un lavoro che è monumentale. Chiaramente. Questo si brucia, ovviamente, che ripeto, si brucia in pochissimi minuti. Si brucia nei famosi 3 minuti. Sì. Saremo 3 minuti e 30, non di più. 3:40. 3:40, ecco. Quello è adesso la bruciamo musicalmente parlando. Sei pronto, Stefano? Facciamo un pezzo, il primo pezzo live. Cosa esegui? Allora, un altro pezzo sempre del mio disco, si chiama I Walk in Central Park. Perfetto. Blu Radio Veneto Rock. Vento nel vento io, con la mia bocca nel cuore, che mi mangia le parole, che si mangia pure me, che non riesco a digerirmi, mare nel mare io, che alzo muri tutti intorno, senza sapere se è notte o giorno, senza sapere se ti vorrei, ma per capirlo io dovrei ascoltare la mia voce interiore, e per farlo vorrei passeggiare in riva al mare o a Central Park, con te o senza te, con me o senza me. I walk in Central Park, apro le tasche, rovescio parole, si scioglieranno come neve al sole, voglio vedere cosa resta di te. I walk in Central Park, dove le foglie non fanno rumore, ho un cervello che non tace mai, ha troppe lingue ed è un brusio, la mia testa un alveare, mille api, le mie idee, la mia pancia non sta zitta, mi chiede sempre dove sei, lei la notte mi tormenta, no, non mi fa vivere felice mai, devo andare per potermi ritrovare. I walk in Central Park, apro le tasche, rovescio parole, si scioglieranno come neve al sole, voglio vedere cosa resta di te. I walk in Central Park, dove le foglie non fanno rumore, dove si può morire d'amore, cercando fragole o silenzio interiore. I walk in Central Park, I walk in Central Park. Blu Radio Rockway, l'onda del rock. Bravissima Cinzia, oh, hai aperto la strada anche dal punto di vista acustico, cioè della, del live, come si è detto, che è la base principale della trasmissione del mercoledì. Benissimo. Grazie. Ampliamo il discorso ancora, visto che qua il produttore, praticamente tu hai filtrato, non so se è giusta l'espressione, filtrato i momenti degli anni 80, li hai sviluppati, li hai creati, li hai portati nel 2009, così? Sì, praticamente possiamo dire che abbiamo rivisto un po' quelle sonorità e abbiamo cercato di renderle più attuali, credo, no? Cosa dici? In alcuni questo. Episodi, ecco. Sempre in alcuni episodi. Sì, in alcuni episodi sì. C'è volutamente un... come posso dire, un riferimento preciso a determinate sonorità, a certe divisioni ritmiche, volutamente per dare un certo tipo di espressione. Ecco. Poi, indipendentemente questo dal fatto, perché è scoppiato dopo la fase di scrittura e di realizzazione, dal fatto che ora ci sia un certo tipo di ritorno, probabilmente era nell'aria e noi l'abbiamo captato come tutti prima, altri. Sì. Chiaramente, sì. Questo è importante. Ma non c'è stata, c'è stata difficoltà nell'approccio di Cinzia con la tua idea? No, perché è stato proprio un progetto che è cresciuto quotidianamente assieme. Cioè io non ho imposto nulla come lei non ha imposto nulla. Abbiamo cominciato a modellare, a plasmare delle idee fondamentalmente. Che bello, plasmare l'idea, mi piace sì. Molto questo ma è stato proprio così. La descrizione esatta delle perché cose. Quotidianamente ci siamo dedicati, chiudendoci in studio, a questo lavoro, quotidianamente proprio. E nel tempo abbiamo affinato, perciò rivisto, a parte l'aver scartato un sacco di pezzi. Sì. Ci sono tanti pezzi nel cassetto pronti, non utilizzati. Sì. Certo. E poi ci sono molte orchestrazioni degli stessi pezzi eliminati per ripartire o modificare quando andava bene, ma è stato raro. Ma tu tagli e cuci o tagli solo? No. Cioè dipende, se è una parte... È una mia idea, sì, sai? Parlare con un produttore la prima volta, io voglio proprio scavare, capire come si fa un disco. No, come dire, se è una parte che può essere migliorata o modificata è un conto, ma se senti che nell'insieme non rotola, non è quello che sentivi che doveva essere... Butti via e riparti. Non è da collage. Riparti, riparti non è un collage. Partendo proprio dalla condizione armonico e melodica, ecco, perché quello fatto salvo quello. Certo, ovviamente. Certo. Anche perché quando un'idea nasce effettivamente ha un suo sviluppo naturale, quindi sarebbe snaturarla l'idea stessa, tagliarla in due pezzi e recuperare un pezzo per attaccarci un altro pezzo che viene da un altro tipo di un'altra situazione, no, un'altra. Sì, è impossibile. Si sente che è un collage alla fine, che è... non c'è coerenza. E il musicista Stefano cosa pensa di questo progetto? Il microfono è anche per te, e mica per niente ti ho messo davanti il microfono, c'è un motivo valido. Cosa penso di questo progetto? Da musicista. Penso che è un progetto veramente grande, valido, con dei brani spettacolari. Ecco, cioè, questo... fai parte anche te di questo progetto? Sì, certo. Decisamente, quindi è importante, il tuo contributo è fondamentale, il tuo contributo per sviluppare il discorso anche armonico, come diceva il produttore, diceva Claudio, chiaramente. Sì, innanzitutto, per riallacciarmi a quello che diceva Claudio sul discorso del taglia e cuci. Esattamente, sì. Sì, generalmente quando vedi che un'idea non può funzionare, chiaramente per Cinzia, è inutile star lì a provare a ritoccare, diciamo. Quindi è meglio partire appunto dall'idea armonica che c'era sotto e ricostruire tutto da chiaramente principio. Sviluppare e ricostruire il discorso. Certo, certo. Adesso noi stiamo facendo anche un lavoro così di ricerca per quanto riguarda il live, no? Stiamo decidendo anche insieme a Stefano e agli altri musicisti i brani che possono essere più adatti alla mia vocalità e che posso interpretare. C'hai molta grinta, migliore. Ho sentito che c'è molta grinta. Questo è un live, sì, acustico, chiaramente. Ma sì, tu c'hai molta grinta, dai molto spessore. Beh, quindi nel live svilupperà sempre di più il discorso, sì, o no? Sì. Beh, è una cosa interiore comunque che ho, che mi ha sempre portato a lottare, ad andare avanti, certo, in tutto quello che cominciavo a fare, insomma. Stefano Zanantonello per me è importante come chitarrista, perché oltre ad avere parecchia stima, molta stima di lui, è stato con me in Rai a maggio di quest'anno. Siamo stati ad un programma che si chiama Effetto Sabato su Rai 1, capito, di sabato pomeriggio, e abbiamo avuto modo di far ascoltare un pezzo di Battiato che abbiamo rivisitato. Quale? Cucuru Cucù. Ah, ok. Ecco. Il famoso album multimilionario di Battiato, esatto, primo che ha superato 1 milione di copie. Mi confermi, Claudio? Sì. Ecco, mi confermi. E Claudio, perfetto, appunto l'ha adattato per questa. Ecco, visto occasione che abbiamo citato Battiato, ma prima sentiamo il pezzo. Che pezzo hai scelto? Della lista io ho scelto questo cantautore che praticamente di cui non si sa, si chiama Jay, giusto? Giusto. Evan si chiama il disco, e non si hanno notizie perché anche in internet o poco, in qualsiasi non si trova, non cioè si questo praticamente ha fatto questo disco ed è sparito. Si chiama J-A-I e il brano è Evan. Perfetto. Blu Radio Veneto Rock. block as I see a family crashing out. Small price to pay for all the money in the bank account. I lost the fly, to get so high. I wonder why. Could it be heaven, or is it something on my mind? All I have given to make me think that it is fine. SMS 346 2320 033. Rock Wave, l'onda del rock. Diretta rockwave.altervista.org. Stasera ci potete sentire e vedere, soprattutto vedere la Cinzia, vedere Stefano e il produttore Claudio. Allora, abbiamo sentito questo pezzo di questo musicista scomparso musicalmente parlando, vero? Sì. Tu hai detto che hai letto un articolo tempo fa. Sì, avevo letto un'intervista all'uscita del disco, più o meno, poco tempo dopo, dove raccontava del padre, che era un famoso jazzista inglese, però poi non ho più saputo nulla di... Come lo possiamo inquadrare questo artista? Non lo so, a me piaceva decisamente molto, trovo abbia un grandissimo gusto. Ed è riuscito a tradurre, adesso è stato ascoltato un episodio, ma tutto l'album è estremamente interessante, c'è un grande lavoro di ricerca e di scrittura. Cosa dicevi oggi, che ti ricordava un po' Scritti Politti? Sì, mi ricordava Scritti Politti, decisamente un grande gruppo. Forse Scritti Politti, decisamente importante, sì. Sì, una bella scrittura, produzione, non si sa niente, sia solo BMG etichetta grossa, sì, solo quello distribuito internazionalmente, è scomparso, peccato. Questo Jay Evan, ecco, per chi fosse interessato in ascolto a ricercarlo, magari sì, se qualcuno riesce a portarci delle notizie, può darsi che lui abbia inciso un altro disco, chi lo sa. Messaggi. Io ho cercato molto, non hai trovato nulla. No, praticamente musicalmente è un discorso interessante. Ok, andiamo avanti allora. Sì. Adesso abbiamo scelto dall'album un pezzo che a me è piaciuto particolarmente, sì, che ti ha lanciato praticamente, hai vinto un premio su questo pezzo. Sì, allora praticamente... Parliamoci un po'. Abbiamo la storia, com'è la storia di questo equilibrista? Allora, questo equilibrista è stato uno dei primi 4-5 pezzi che abbiamo realizzato nell'arco di brevissimo tempo, perché poi gli altri sono stati dopo, più lenti. Più sì, lenti. E con Equilibrista ho partecipato al Festival della Gondola d'Oro di Venezia nel 2005, è un festival che ho vinto. Quindi hai vinto immediatamente, prima partecipazione, subito. Meglio di così. Abbiamo fatto un test per vedere appunto se la musica, se avevamo delle risposte positive anche. Ci eravamo sentiti con colleghi, amici, e abbiamo voluto vedere anche il pubblico come rispondeva. E sono arrivata prima, ecco. Sì, eravamo più di 450 iscritti. come dico, non è poco, eh. Sì. Hai fatto poi un bel balzo in avanti. Esatto. 449 presentava indietro. Presentava Giosquillo. Giosquillo. Giosquillo, poi c'era Sky Television. Certo. E ovviamente in giuria c'era il maestro Renato Serio, che dirige l'orchestra al Festival di Sanremo. Sì. Elio Cipri, il padre di Siria, che è un discografico. Joe Alaimo e tanti altri. Il cazzettino. Sì. E tanti altri importanti, giornalisti e musicisti, insomma. Quindi un festival davvero di tutto rispetto, molto importante, dal quale poi hanno iniziato una lunghissima carriera tanti artisti. Sì. Anche Mia Martini ha partecipato al festival. Baglioni, Venditti. Baglioni, certo. Venditi. C'è un episodio, non so se lo sai, che riguarda Mina e Iva Zanicchi, la gondola d'oro di Venezia. Forse Claudio lo sa. Sì. E Mina doveva cantare un pezzo. Mm-hmm. Ha cominciato, è entrata davanti al microfono e ha cantato il pezzo subito, senza nessuna ripetizione. Iva Zanicchi l'ha provato 50 volte, per modo di dire, una quarantina di volte, e poi la 40ª volta l'ha provato. Mina è entrata e ha cantato il pezzo, basta, chiuso, senza nessuna prova. Una roba incredibile. Pazzesco. Lei è rimasta così. Questo è un episodio che racconta Iva Zanicchi in qualche intervista di qualche tempo fa. Però alla Gondola d'Oro, cioè quando sì. Mina aveva cantava anche là, dopo chiaramente non ha più fatto nulla. Però certo, la potenza straordinaria di questo personaggio. Comunque è un'emozione incredibile andare su quel palco, perché sei al Lido del certo, al Lido di Venezia, Lido di Venezia. Al Palazzo del Cinema, quindi dove gli attori ricevono gli Oscar orchestra. Per il film. È sì. La grande orchestra. La grande orchestra. Grande atmosfera. Ensemble, cioè. Sì, di Venezia. No, veramente un'esperienza unica, incredibile, mi ha lasciato un grandissimo bel ricordo. Ma anche il pezzo è bello, accattivante, ma non l'accattivante così, l'accattivante è fatto bene. Sì, il pezzo m'ha colpito immediatamente, io non sapevo, non avevo letto la biografia prima, sì. Ho letto dopo la biografia, ma ha colpito immediatamente questo sì, pezzo qua. Sì, sì, sì. Ma ha colpito anche immediatamente, dicevo a Claudio in trasmissione, prima della trasmissione, la tua riproposta di un pezzo così difficile di De Gregori. Secondo me è un pezzo molto difficile, sì. Di un album non famosissimo, è un pezzo bello, musicalmente complicato, tu l'hai reso molto bene, ripeto, sì. Un pezzo non semplice per una ragazza. Guarda, in merito a questo episodio ci scrisse, come si chiama, che io coi nomi sono un disastro, il compagno produttore di Mannoia. Piero Fabrizi. Ci scrisse Fabrizi, sì. Perché sentì la versione di Cinzia del Cuoco di Salò, e ci insomma scrisse per complimentarsi dicendo: ho avuto l'onore di essere in studio con De Gregori quando realizzammo il Cuoco di Salò, e poi dice: ti sei mai chiesta perché nessuno mai fa delle cover di De Gregori? Perché è come scalare una montagna a piedi nudi, e devo complimentarmi perché la tua versione mi ha addirittura più emozionato. Vedi. Sì. Sono perfettamente d'accordo con quello che ha detto Claudio, perché è difficilissimo interpretare un pezzo di Gregori. E abbiamo fatto apposta, nel senso, abbiamo voluto inserire quell'episodio per tutta una serie di motivi. Non ultimo quello di, come posso dire, di prova d'autore, mettiamola così. Sì, ecco. Ho capito. Lo stesso la rivisitazione di Lilli. Un altro pezzo molto molto complicato, molto complicato, molto difficile da realizzare, soprattutto sotto l'aspetto dell'orchestrazione, perché studiandolo e poi realizzandolo mi sono reso conto che 30 anni fa non c'era altro modo di realizzarlo se non quello, nello stesso modo in cui Venditti l'ha realizzato. Un testo molto difficile 30 anni fa. E poi decisamente pensa difficile. Che fondamentalmente si basa sempre su quell'accordo per quasi 7 minuti, eccetera. E oggi è stata davvero una prova ardua il rivisitarlo anche in chiave di arrangiamento. Ecco. È stata una prova difficilissima, anche interpretativa. Certo, anche sono d'accordo con te. Poi ce ne sono molti altri episodi che abbiamo preparato e non inserito, perché insomma sono cose che poi si faranno dal vivo, ma ero tutte assolutamente riviste e per vestire Cinzia. È quello importante. Sentiamo l'equilibrista. Sì, ok. Blu Radio Veneto Rock. Sei la mia vita, allora. agire, lavorare, lo dice il tasso, quel poeta che è perduto il tempo, che non si stende ad amare. Ma non è questo il mio problema, cavalco sempre il sentimento, senza mai sapere dove andare, senza sapere. Diretta rockway.altervista.org. Michele Tosoni in regia. Roberto Baldi è sparito, no? È presente. È andato via. Come sempre, lui cura sempre le telecamere. Come sempre. Abbiamo un altro operatore, Cinzia, Stefano e Claudio. È sì? Sottoscritto che cercano di guidare questo percorso, sta cavalcata verso la mezzanotte per parlare del tuo album, del tuo universo sonoro. Questo è importante. Sì. Fra pochissimo, fra qualche secondo, ci sarà un giochetto. Abbiamo già detto a Stefano, tu forse lo sai, Claudio non lo sa, lo dico a Claudio, i 5 dischi da portare su un'isola deserta. Non è, non è l'isola dei famosi dell'avventura, sono i 5 dischi vostri, di vostra pertinenza, i vostri amati 5 album. Una volta si chiamavano gli album in vinile. Il vinile è ritornato, adesso ci sono i CD che sono freddi rispetto ai dischi. I dischi erano un'altra cosa. Sentire, scartare un disco, come Claudio mi insegna, è una cosa meravigliosa. Proprio meravigliosa. Non c'è niente a fare. Ok, ci siamo quasi. Tra poco il gioco. Sono le 23 e 0 minuti. Ok, allora, con chi cominciamo? Cominciamo, no, con la signora, cominciamo dopo, per fine. Va bene. Cominciamo con Claudio. Dai. Due, cinque dischi, Claudio. No, è durissima. No, non è semplice, dai. No, non è semplice, è durissima davvero, perché cioè, significa scattarne a decine. Ma tu mi dai un input e poi lo sviluppo io. Beh, io allora, al di là delle come posso dire, dello spessore musicale, compositivo, dovrei andare più sotto l'aspetto affettivo. Ok, andiamo sotto l'aspetto affettivo. E allora dovrei citare Thick as a Brick dei Jethro Tull. Adesso ci fermiamo un secondo, perché Ian Anderson e perché Thick as a Brick? E per non Aqualung, per esempio. Perché è il primo album progressive, o non è il primo? Primo album con due facciate, lato A e lato B, e basta? Non c'entra niente. Era proprio... Quante volte li hai visti, Jethro? Allora, dal vivo soltanto 3. Benissimo. Io ne ho visti due. Soltanto 3. E l'ultima volta, tra l'altro, qualche anno fa a Udine. Ok. Pochi anni fa a Udine. Ma quanto potenza ha uno che sta un'ora e passa con una gamba sospesa? Sì. E con il flauto? Quelle sono espressioni corporee che, come posso dire, fanno certamente scenografia, sì. Ecco. Ma è quell'uomo è un monumento. È un grandissimo. Ecco, perciò ti è un distruttore di band, però tu ben lo sai. Sì, no? Lui e basta. Lui e a parte John Hammond, che è rimasto per tanti anni. E continua. Insomma, stiamo parlando però di un uomo che al di là della sua straordinarietà musicale, un uomo che ha sempre saputo, fino a che questo gli è stato possibile e consentito dai tempi, adeguarsi al mercato, pur facendo delle cose di altissima qualità. Per questo costantemente lui cambiava le variazioni, le formazioni, fino ad arrivare al piccolo genio di Eddie Jobson, col quale fece questo esperimento non marchiato Jethro Tull, marchiato A. Sì, e basta. È vero. Ecco. E comunque questo è di Jethro. Jethro Tull, Ti Casabrica, assolutamente. Bellissimo. Yes Song. Ecco, un'altra epocale, anche dalla copertina, Roger Dean. Certamente. Straordinario artista. Fantastico. Un triplo concerto live indimenticabile. Yes Songs, con 4S davanti. Ecco, enorme. Un gruppo da fragile in su e in giù, enorme, come volete voi. Enorme. È un gruppo enorme. Yes. Questo. Picture at an Exhibition di Emerson. Perché il genio creativo di uno che salta dalle tastiere all'altra? Perché Emerson, Keith Emerson, Die Nice, che I Help. Un altro musicista straordinario, un talento incredibile. Esistono dei filmati che grazie a YouTube adesso si trova tutto. Sono andato a vedere e ne parlavo poco tempo fa, proprio qualche giorno fa, con mio amico e collega Francesco Sartori, e gli raccontavo appunto che avevo visto questo filmato di una session di registrazione in Spagna dove Emerson fa sentire la parte a Great Lake e fa sentire la parte a Palmer, li prova in singolo e poi li prova in insieme, gli va a fare la suddivisione del Charleston come deve essere, rallentando, insomma, una cosa enorme. E a vederli adesso mi rendo conto che erano ragazzini, ma un talento superiore. E ricordiamo che Greg Lake faceva parte di King Crimson, quindi un gruppo mica da niente, un gruppo straordinario. Certo. E Palmer lo stesso aveva una grande band anche lui. Assolutamente. Quindi Emerson, Lake & Palmer. Questi tre, ecco, e lì chiudiamo un periodo, poi ce ne sarebbero. Sì, chiaramente. Ne abbiamo ancora due, Claudio. Ecco, per tutta una serie di motivi, la voce del padrone, di Franco e Pio. Adesso parliamo un momento del vostro rapporto con Franco e con Pio, anche da parte della Cinzia. Parte dal mio rapporto che ho fondamentalmente con Giusto Pio e di conseguenza con Franco Battiato. Con Giusto Pio perché è di fatto non solo il mio maestro, dal quale io ho imparato molto e devo molto, ma questo sotto l'aspetto professionale. Sotto l'aspetto personale e affettivo io lo considero un po' il mio secondo papà, ecco. Abbiamo un legame molto stretto e profondo. Con Franco di conseguenza, perché il rapporto che esiste tra loro storicamente è di profonda stima, di profondo affetto anche sul piano umano e professionalmente, insomma, credo non ci sono dubbi, niente da dire. Perciò quindi la voce del padrone. La voce del padrone, assolutamente, perché rappresenta un po' la pietra miliare della loro produzione, la messa a fuoco assoluta di tutta una serie di circostanze musicali affinate nel tempo, poi migliorate, eccetera, ma lì c'è proprio l'essenza. Eccolo qua. Loro. Ecco. Da Madame le Gladiateur, da Click alla voce del padrone, Click, come mai? Oppure da sulle corde di Aires, oppure L'Egitto prima delle sabbie. Esattamente, una roba straordinaria. Sono fasi. Fasi assolutamente diverse, e poi ci sono anche tutta una serie di circostanze vere e proprie che li hanno spinto loro ad approdare, diciamo, la forma canzone, esattamente, tra virgolette, di tradizione. Perché era un trasgressivo, dobbiamo ricordarlo, i primi dischi Fetus, un disco epocale secondo me, e sulle corde di Ares è ancora più difficile, ancora più difficile, complesso, incredibile. Ultimo, ne abbiamo il quinto. È molto difficile. Tanto Stefano ci ha avuto 10 minuti per capire. Però per fare la sua scaletta. Mi porterei via a caso un disco di Chopin suonato da Arturo Benedetti Michelacci. Ah, perfetto, ok. Andiamo sul tanto su. Per chiudere, bellezza, ecco, sì, in bellezza, in straordinaria bellezza, un angelo caduto veramente dal cielo e che ci ha regalato delle cose indimenticabili e finora mai più replicate, insuperabili, sì, assolutamente. Assolutamente. Ecco. Stefano, tocca a te adesso. Allora, stavolta mi cogli meno impreparato. Benissimo. Però, nonostante tutto, non ci ho pensato più di tanto. Ok. Perché voglio provare a dire 5 dischi che mi vengono proprio all'ultimo istante. A pelle. Sì, e potrei stupirmi. Bene. Allora, 5 dischi non è limitativo, ma è proprio un crimine quasi. È un crimine, lo so. Io potrei andare avanti fino a oltre mezzanotte, ma giustamente il regista mi dice, ma dove andiamo però oltre mezzanotte? Non si può, non si 5 può. E 5 ne scegliamo. Non si può, visto, allora, viso del regista, sì. Non si può. Ma anch'io come Claudio vado un po' per gli affetti che provo verso i dischi che ti nomino. Innanzitutto porterai Toto 4. Perché Africa? Perché Africa? Perché Africa? Dunque, pensa che parecchi anni fa, esattamente 10 anni fa, non conoscevo ancora i Toto. Grande session, man. Assolutamente, grandissimo. Stavo andando a Bologna in fiera e eccola qua. E ecco, sentivo, ecco, vedi che Michele l'ha subito pescato. E sentivo queste percussioni partire in radio. E io non sapevo chi fosse. E mi innamorai di questa canzone e finché appunto misi mano a Toto 4 e da lì mi innamorai dei Toto. Fratelli Porcaro, cioè, no, Fratelli Sessio, Steve Lukather, quanti dischi hanno inciso Fratelli Porcaro? Un sacco di dischi, tutte le parti. Attenzione che Toto 4 non è stato inciso da Mike Porcaro, ma sì, c'era, è vero, è però l'ultimo album inciso esattamente dal primo bassista di Toto, che poi in realtà non è conosciuto. Però, per quanto riguarda il lavoro con i Toto, chiamano il prezzemolo i Fratelli Porcaro, per sì, per sì, no? Esatto, c'era anche fra l'altro il padre che suonava, certo, la percussione in qualche quindi, Toto, e quindi questo è l'episodio per cui mi ha portato a scegliere i Toto, perché comunque dopo i Toto io sono cresciuto un po' dopo anche con i Toto e tutti i loro album li ho visti 7 volte dal vivo, però 7 volte, e la prima volta sono andato fino a Monaco di Baviera per vedere i Toto e quindi il primo disco che mi viene in mente è questo. Il secondo disco è il primo disco, diciamo, che mi sono comprato da solo, e quindi il motivo è per questo, perché è stato un po' il comprarsi il primo disco da solo. Il primo disco non si scorda mai, no? Certo. Ed è Buon Compleanno Elvis di Ligabue, anche se sono tantissimi anni che in realtà non lo ascolto. Però sei stancato? No, non è che mi sono stancato. Ti sei stancato di Ligabue musicista di adesso oppure no? Ma adesso è un po' cambiato rispetto, sì, ai primi tempi. Ligabue è una grande band, però, in ogni caso. Assolutamente sì, mi piaceva molto di più nei primi. Non che adesso non mi piace, però mi piaceva molto di più prima. Una volta, sì, prima. Quindi Ligabue. Nei primi album, esatto. Quindi questo è secondo. Il secondo album. Il terzo album è Seeds of Love dei Tears for Fears. Perché hanno un sound che se lo ascolti adesso dici, questo CD qua, questo album qua è stato inciso ieri, e invece è di fine anni 80, certo, certo. Ma un sound veramente pazzesco, estremamente validi, validissimi, assolutamente sì. E questa è una scelta per cui mi stupisco, nel senso che non pensavo di scegliere i Tears for Fears. Però allora il quarto, siamo arrivati al quarto, sì, giusto, certo. Il quarto album, Afraid of Sunlight dei Merillion. Come mai Merillion? Come mai Merillion? Con Fish o senza Fish? Ecco, non mi pare che Fish sia senza Fish. È senza Fish. Il Peter Gabriel, qualcuno ha detto malignamente dei poveri, non so se sei d'accordo. Sì, no, no, lui vabbè, ha detto di sì. Non è vero, dai. Però insomma, magari con Fish effettivamente le somiglianze con, però se parliamo con un fan di Merillion magari si può anche turbare, può arrabbiarsi per questa esattamente, cosa. Esattamente, però vabbè. Perché i Merillion? Perché quell'album là? Esattamente. Perché anche questo è un grandissimo pezzo, esatto, con Fish, sì, tra l'altro, sì, sì. Perché penso che quando ho sentito Beautiful da quell'album là penso di aver pianto. Ah, ho capito. Ascoltando una canzone, è veramente strepitosa. Il quinto album è un album che probabilmente conoscono in pochi, ma è Ace on the Water di Luca Colombo, che è un grandissimo chitarrista italiano e che stimo molto. Quindi questi sono. Questa è la tua cinquina. Questa è la mia cinquina, esattamente. Cinzia, tocca a te adesso. Io farò un terno perché la cinquina non riesco a farla. Allora, sarà un po' difficile io probabilmente. Non ci sono degli album che per intero mi piacciono. Poi devo dire la verità che io ascolto molta musica, però ascolto un brano di un artista. A flash, qua, insomma. Sì, molto... Ho capito. Un po' come viviamo adesso, no? Certo. Molto free. Sicuramente La voce del padrone come album l'ho portato anche oggi da ascoltare, e c'è una canzone che mi piace tantissimo che poi spero si riesca ad ascoltare insieme, Gli uccelli. Sì, bellissima. Franco Battiato, La voce del padrone, quindi primo album, perché mi piace questo suo modo di cantare, come se fosse se avesse una spiritualità che esce da dentro, no? Mi piace questo il suo modo di muoversi. Io ho avuto poi la fortuna di vederlo dal vivo a Piazzola a settembre di quest'anno insieme a Claudio, e sono rimasta incantata a guardare i movimenti che faceva suoi. Quindi La voce del padrone sicuramente, poi Pearl di Janis Joplin, perché è stato l'album che ha segnato praticamente la mia adolescenza. Grandissima musicista Janis Joplin. Questo Janis Joplin, è l'album, sì, uscito postumo praticamente. Perché sì. Pearl, questo album straordinario? Perché lei, soprattutto perché lei. Proprio perché lei, nel senso, perché lei ha avuto una vita dissoluta. Sì, esattamente. Una si è vita distrutta con le sue. Difficile, sì. Si è distrutta, però. Sempre con l'amore, sì, per gli uomini, per la musica, per l'alcol purtroppo, per le droghe. Per le droghe soprattutto. Per tutto quello che era l'eccesso. Perché era l'eccesso. Esatto. E quindi sì, questa voce che esprimeva anche la sua sofferenza interiore, questa voce rocca, graffiante. Sì, incredibile. Sì, Pearl, diciamo che io l'ho ascoltato per la prima volta quando avevo 18 anni. Fino a prima avevo ascoltato solo Fiorella Mannoia e mi ispiravo a lei. E poi ho sentito Janis Joplin e si è aperto un mondo completamente nuovo. E Pearl assolutamente lo porterei con me. Un disco stratosferico. Per... Assolutamente. E Move Over è stata la canzone che per prima mi ha... incuriosita di più di tutto l'album, molto rock, molto... Certo. E poi un altro disco, un terzo, io ho sempre adorato Ivano Fossati, come scrive. Che periodo di Ivano Fossati? L'ultimo periodo? Il periodo in cui ho lavorato con Mia Martini, quindi che anni erano? Anni 80, fine anni 80. Dopo la produzione di Panama ed altro. Sì, sì, sì. Non il Battiato della mia banda Swan Rock. No, sì, dopo chiaramente. Sì. Fossati di quel tempo. Là. Sì, mi piace molto Danza. Ah, capito. L'album Danza, dove ci sono dei brani, c'è un brano che avrei voluto portare ma non ho trovato. Okay. Si chiama Buonanotte, Dolce Notte, Buonanotte. È bellissimo. Ecco, Michele ha tirato fuori il Fossati, proprio, il Fossati, quello più famoso, giustamente. Pensa un po' che quando io ho conosciuto Claudio gli chiedevo: ma tu scrivi? E mi ricordi tantissimo Ivano Fossati per la scrittura che hai. Certo. Mi fa: ma manco l'ho mai ascoltato, mi dice lui. No, è l'unico, uno dei pochissimi cantautori che non ha mai ascoltato. Non ami particolarmente Fossati? No, riconosco in alcuni episodi grande una talento, buona penna, sì, una buona penna, sì. Però non mi ha mai appassionato particolarmente. Non fa parte delle tue preferenze. Non mi sono mai trovato, come posso dire, fortemente coinvolto emotivamente. Ok, benissimo. A parte qualche episodio, che per l'amor di Dio. Ecco. Certamente. 23 e 15 e 22 secondi. Cosa abbiamo in scaletta adesso, Michele? Ah, facciamo il live, sì. Siete perfetto, pronti? Allora facciamo un altro album. Un altro pezzo. Ah, oh. Abbiamo parlato di dischi. La prossima volta faremo. Forse è l'ora, sai? Sì, l'ora. Sai che non sono mica abituata a fare tanto ore. Io vado a letto presto. Di notte la radio si sente meglio. Mi riposo, sì, lo so. Si sente molto E ci sono meglio. Gli ascoltatori, quelli fedeli. Esattamente. Allora, il prossimo brano. Vado a letto alle 4 di mattina, sì, non c'entra, non c'entra niente. Ok, che pezzo facciamo sentire? Si intitola Un battito in più. Blu Radio Veneto Rock. Passa il mondo, la stagione dove passano le belle canzoni, ed anch'io che sto a fiorire, mi vedo passare, mi sento appassire. Passa il tempo, passa il vento, dopo la pioggia torna il sole, e tutto gira, è un giro tondo, mentre passa tutto al mondo. Ma no, tu no, non passi tu, perché per te ho un battito in più. Se ti vedo quando ti parlo, nel mio cuore c'è un battito in più. Tra le cose nel cassetto, le parole che non ho detto sono passate, dimenticate, come gli occhi di chi ho scordato. Come un treno sfreccia la notte, riparte il giorno che va a finire. Più ci penso e me ne accorgo che tutto passa, tutto passa. Ma no, tu no, non passi tu, perché per te ho un battito in più. Se ti vedo quando ti parlo, nel mio cuore ho un battito in più. Ma no, tu no, non passi tu, perché per te ho un battito in più. Se ti vedo quando ti parlo, nel mio cuore ho un battito in più. Ok, diretta rockway.altervista.org, ci potete sentire e vedere stasera con Cinzia Fontana. Parliamo dell'etichetta, Claudio Corradini, l'etichetta Risonanza, che è la tua etichetta praticamente. Sì. Che l'etichetta, qui ci sono l'album, la sì. Cinzia. Allora, Risonanze di fatto è, come posso dire, è un laboratorio che nasce più o meno 15 anni fa. Nasce perché insomma volevo fare una particolare ricerca che era musicale, che era strumentale, ma era anche di contenuti, che ha portato poi anche a un libro, insomma tutta una serie di cose. E nasce in associazione con Stefano Rota, meglio conosciuto come Michael Righeira. Sì. Nasce per rispondere fondamentalmente alle mie / nostre esigenze. E non ha velleità di essere una vera e propria etichetta discografica coi crismi delle etichette, ma semplicemente di essere un'espressione di quello in cui crediamo fondamentalmente. Tant'è che per esempio il disco fisico di Cinzia, che uscirà a breve, non uscirà con Risonanze, ma con un'altra etichetta, una casa vera, ecco. Nel senso, non che noi non siamo veri, ma abbiamo degli accordi di distribuzione, abbiamo la nostra struttura, gli studi, ma nasce più come progetto culturale, possiamo dire questo. Sì, fondamentalmente. Niente, questo insomma è in essenza quello che noi vogliamo fare, cioè ruota attorno a me in questo periodo, a me, a Cinzia, a Stefano, a Diego, che è di là o non so dove, parte, sì, ecco, a tutte le persone, ecco, per esempio ai ragazzi che insomma con i quali Cinzia farà i live. Che oltre a Stefano Zarantonello li cito perché sono musicisti di assoluto valore sotto l'aspetto professionale, umanamente persone straordinarie, che sono Alessandro e Francesco Piovan come sezione ritmica, Valentino. Poi Valentino Favotto a pianoforte e tastiere e Martina Marchiori al violoncello. Benissimo. Tutta gente che ha grandissima esperienza, che ha lavorato sempre solo con i più grandi, esperienza live, esperienza televisiva, di registrazione, insomma, musicisti professionisti di altissima qualità. Ecco, perciò Cinzia parte anche in una condizione di privilegio, certo, in questo senso. Possiamo ricordare le date, Cinzia, se ti vengono in mente le date future? Non c'è ancora un calendario. No, perché ci stiamo lavorando adesso. Siamo... Esattamente, stiamo lavorando parallelamente sia alla realizzazione della stesura dei brani per il tour sia al nuovo disco. Ah, okay. Quindi siamo siete sempre in iperattività. Esattamente. E come volevo sapere una cosa, musicalmente i brani live saranno in forma acustica, pseudoacustica o elettrica? Io credo in forma connubio, un po' in acustico, connubio, in equilibrio, sì, giusto, sì, tra acustico e elettrico. Sì, sì, ci saranno dei brani d'atmosfera, dei brani invece un po' più ritmati. Esattamente. Sì, sì, sì. Tu che ami particolarmente Janis, ci sarà qualcosa di Janis nel tuo? Ma io credo farò musica italiana, musica perché italiana. L'italiano è la lingua che parlo correntemente, certo. E quindi io pensavo che facessi Mercedes Benz, non so, perché mi è venuto in mente così. Piaciuto. Mi è venuto in mente in mai questo dire, mai. Flash. Se vuoi te la faccio adesso. Magari, me, si fa Mercedes Benz di Janis Joplin. Oh, Lord, per me è una cosa. Won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drew up Porsches and like my Smith down. Well, for the evening and a party next thing. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? T'ho fatto proprio. Perfetto. E poi con un inglese. Questa è la bellezza di Rock Wave, eh? Questa è Rock Wave, c'è niente da fare, eh? Cosa straordinaria. In ogni caso, Janis. Oh, grazie. È una cosa meravigliosa. Ok, adesso penso. Cioè, il disco adesso, Michele. Che pezzo abbiamo scelto da far sentire? Del disco non abbiamo ancora scelto, sì, ma possiamo sceglierlo insieme, sì. Usmamo. Ah, ok. Ah, Usmamo. Usmamo. Sì. Piano con l'affetto. La numero 9. Bellissima canzone. Blu Radio Veneto Rock. Tres. Blu Radio Rockwave, l'onda del rock. Questo era un pezzo favoloso, sì. Un gruppo molto importante, molto interessante, che purtroppo non è stato capito, ha avuto delle difficoltà ed è sparito nel nulla. Peccato, perché aveva delle sonorità, giustamente Claudio mi diceva, aveva, non c'è scritto nei credits, ma l'ispirazione di Lindo Ferretti, dei CSI, di PGR, tutto quello che vogliamo, sì. c'è, si sente, c'è poco da fare. Sì, sì. E in questo brano, insomma, cioè, si sa che l'ha scritto lui. L'ha scritto lui, anche se non c'è scritto negli autori. E poi lei con questa voce. Voce meravigliosa. Candida. Era molto, molto bello, molto interessante. Sì. Come sonorità, sì. Era molto avanti. Sì. E purtroppo essere avanti qualche volta non paga. No, assolutamente non paga. È un problema. È più difficile essere indietro e essere avanti. Il difficile è essere nel momento giusto. Quello è essere nel momento giusto. Molto difficile. Sì, purtroppo è così. Benissimo, sono 23:30, non abbiamo ancora mezz'ora per cavalcare le idee di Cinzia. Però sentiamo il pezzo del disco adesso. Sì, sentiamo un altro brano del mio disco, si chiama Solo per amore, ed è il brano con cui abbiamo iniziato questo progetto. Vogliamo presentarlo adesso o dopo? Cosa dite? Presentiamo dopo, dai. Lo ascoltiamo. Va bene. Esatto, prima lo sentiamo. Sì. Blu Radio Veneto Rock. Esco, muovo i passi nel viale, col temporale nel cuore. Vengo a cercare dove sbatto la testa, tutto il resto non conta, voglio te. Io devo trovarti, mollo tutto, vengo a cercarti, non so nemmeno. Soltanto che perlomeno voglio te. bagnati. Non lo so se c'è il sole e manchi tu, e non riesco a pensare, non riesco a credere a domani, perché non so nemmeno che giorno è, ma so soltanto che perlomeno voglio te, per farti l'amore fino a che ho sangue nel. L'onda del rock. Ok, ci siamo. Parliamo un momento del pezzo, Cinzia. Beh, questo pezzo appunto è stato il primo brano che ho provinato con Claudio, per cui è nato tutto il lavoro. Era quel brano in cui a metà canzone mi ha fermato, mi ha detto vieni in regia, se ti va facciamo un lavoro, un progetto di lavoro insieme. Questo brano non lo do alla Sugar per Mina, con questo brano voglio lavorare con te. E io ho detto, perché no? Perché no? Che emozione hai sentito quel momento, Cinzia? Oh, guarda, cioè io era da tantissimi anni che desideravo di trovare una persona, un arrangiatore, un compositore che credesse veramente nelle mie qualità vocali e nella mia persona, e che decidesse di appoggiarmi per esprimermi, per mettere in musica quella che è l'espressione, insomma, della mia anima, no? Con la voce. E quindi, cioè, mi sentivo sopra una nuvola. Ecco, esatto. In paradiso. Poi si è strapentita, però inizialmente no, no. Assolutamente. Che, vabbè, poi sai, un percorso lungo, un percorso dove anche a volte, cioè, non si va d'accordo su tutto, ci si hanno delle idee diverse, ma come tutti i lavori è così in tutti. Non siete mai arrivati come i fratelli Gallagher? Assolutamente. Ancora. Cosa facevano? Ancora. Si ubriacavano? Quelli no. Eppure sono dei geni, nonostante tutto. Cioè, straordinari. Sono delle persone straordinarie, perché uno non può stare senza l'altro, secondo me. Si ritroveranno un'altra volta, questo è chiaro. Però né con voi né senza di voi. Si ritroveranno nell'aldilà? No, secondo me si ritrovano. Il disco, qualche volta è fatto ad hoc. Secondo me ci sono dei momenti di livello, si abbassa, si deve rialzare il livello. Tu lo sai meglio di me. Certo. È tutto, anche se gli Oasis è un gruppo. Io recentemente ho sentito un amico, li ha visti a Treviso, hanno fatto due esibizioni, una a Treviso e un altro posto. Treviso hanno fatto un'esibizione meravigliosa. Il giorno dopo erano a Milano, non avevano voglia di suonare. Quando non hanno voglia di suonare, non c'è niente da fare, suonano i 40 minuti, un'ora stabilita per contatto e se ne vanno. E se Treviso erano straordinariamente innovativi e suonavano senza problemi. E così sono fatti. Così. C'è niente da fare. Artisti. Lo faceva anche, sai, lo faceva un altro, Van Morrison, questa cosa qua. Van Morrison, tipo, diceva, adesso faccio un piccolo appunto, uno degli Audio Kiss, la cantante, che Van Morrison è un tipo incredibilmente scontroso. Ha citato un vocabolo, non lo dico praticamente, intrattabile, assolutamente intrattabile, è un genio, è intrattabile, può suonare 10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti, come vuole lui, non ci sono, anche se lui ha firmato un contratto, del contratto non esiste, è una cosa intrattabile, seppure un genio assoluto, un genio assoluto che ha cavalcato generazioni musicali come un genio, eppure Evan Morris. Ok, chiuso la parentesi. Suoniamo adesso, siete pronti? Sì, dai, facciamo un altro brano del mio disco che si chiama Stringimi. È un brano sempre che parla d'amore, e di un bisogno d'amore proprio. Di, col di grande sentirsi. Stefano alla chitarra. Col grande Stefano Zanantonello. Ok. Blu Radio Veneto Rock. La distillazione dell'amore chiede sempre di due cuori e di un filo che li possa legare, e di un fuoco che non si deve spegnere. La distillazione dell'amore ha bisogno di un riparo dove vento o pioggia non possano entrare, dove neve o grandine non possano disturbare. Ma la cosa più importante è che si deve amare come non ci fosse un'altra notte. E allora stringimi, stringimi. Siamo una cosa sola e non esiste velo che ci possa coprire adesso. Stringimi, stringimi a te. La distillazione dell'amore vuole cure come un giardino. È come terra che deve essere coltivata, come una terra che deve essere amata. Ma la cosa più importante è che si deve amare come non ci fosse un'altra notte. E allora stringimi, stringimi. Siamo una cosa sola e non esiste velo che ci possa coprire adesso. Stringimi, stringimi a te. A te. L'onda del rock. Diretta rockway.altervista.org. Michele Tosoni in regia e Roberto Baldi che se n'è andato, che cura le telecamere, e esattamente, bisogna dirlo, e Maurizio Calzavalla al microfono, Cinzia e Stefano e Claudio. Buonasera a tutti. Cinzia Fontana e il suo progetto. Hai un tuo sito, vero? Sì, www.cinziafontana.it o .com. Dove possiamo, cosa possiamo trovare? Ah, un po' di tutto, cioè, ci sono le note biografiche, ci sono i testi delle canzoni, c'è la copertina del mio disco. Che è molto bella, ripetiamo. Sì, è Fotosintesi. Esattamente, Fotosintesi. Ecco, sì. E dove lo possiamo trovare il tuo disco? Il disco è in vendita su iTunes, Fnac, Music, Ricordi, tutti i canali di vendita normali. Internet, sì, di internet. Certo. Per il momento solo lì, però a breve penso che faremo la copia fisica proprio per la distribuzione nei negozi. Perfetto. E quindi questo lo speriamo per, già per gennaio. Benissimo, ecco. Quindi per il 2010 sarà per il 2010 negozi. Tutti quanti potranno vedermi nei negozi. Benissimo. Ottimamente. Cosa sentiamo adesso? Abbiamo un altro, un quarto d'ora di tempo. Avete scelto un altro pezzo? O... Ma possiamo far, possiamo ascoltare proprio quella che è stata la mia musa ispiratrice come vocalmente, Janis Joplin. Cry Baby, la numero 3. Blu Radio Veneto Rock. Blu Radio. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 2320 033. Rockway, l'onda del rock. Beh, una curiosità, Claudio lo sa, ma questo è il disco più venduto di Janis Joplin e purtroppo è un disco postumo uscito dopo la sua morte. È il più venduto in assoluto della sua discografia. I tre dischi per la CBS, la famosa etichetta. È uscito nel 71 questo. Esattamente, lei è morta nel 70. Sì, perché i tre grandi sono morti tutti nel 70, Janis Joplin, Jimi Hendrix e Jim Morrison. Sì. Sono morti tutti nel 1970. E tutti per la stessa fine. No. Ci sono tante coincidenze. E tutti cominciavano con la J. Vedi caso, e tutte con Janis Joplin si sa. Jimi Hendrix è un grandissimo e Jim Morrison è un altro grandissimo. Sì. Purtroppo è così. Ok, abbiamo quasi, siamo quasi arrivati alla fine, però abbiamo sempre questo quarto d'ora fondamentale per cosa fare? Per suonare. per suonare tre pezzi live, un po' alla volta, che almeno tutti insieme. No. Il primo che vorresti interpretare? Il adesso. Primo è un altro brano che fa parte del mio disco, si chiama Quanto Mondo, e penso che non ci siano dire altre parole. No, se non basta solo sentirlo. Quella di ascoltare. Stefano è pronto, ha predisposto tutto quanto, tutto dal vivo, c'è niente di registrato, è tutto dal vivo e siamo pronti. Improvisation. Blu Radio Veneto Rock. Che matita che sei, che mi sai tratteggiare come fossi un bel mare tutto azzurro da nuotare. E che notte che sei, quando alzo le onde sono fiume senza sponde che non sai come arginare. Che mattino sarai, con le labbra ovattate a svegliarmi a poco, ma che giorno che sei, senza un attimo uguale, non mi lasci annoiare nello stare quotidiano, ma quanto mondo, ma quale mondo ho incontrato incontrando te, ma quanto cielo se alzo gli occhi e quanto verde se guardo giù. Ma quanto mondo, ma quale mondo mi metto addosso mentre vivo te, e quanto cambia questo mondo mentre cambio e cambio con te. Che romanzo che sei, mille storie da inventare, ogni volta un finale che non finisce mai. E che occhi che hai, che mi leggi pensieri, prendi quelli più neri per coprirli di colori. Ma che vita che sei! Ma quanto mondo, ma quale mondo ho incontrato incontrando te, ma quanto cielo se alzo gli occhi e quanto verde se guardo giù. Ma quanto mondo, ma quale mondo mi metto addosso mentre vivo te, e quanto cambia questo mondo mentre cambio e cambio con te. Ma quale mondo, ma quanto mondo ho incontrato incontrando te, ma quanto cielo se alzo gli occhi. Quanto cambia questo mondo mentre cambio e cambio con te, e cambio con te, cambio con te, cambio. Blu Radio. Ok, bella, vivace, accattivante, sì. Sei dato un po' di pathos, come si dice nel termine, in gergo, un po' di pathos, un po' di movimento, un po' di ritmica. Certo. Benissimo. Leggevo fra le note, quello che dovevi far sentire, però per motivi di tempo abbiamo lasciato perdere, che avevi scelto anche Me and Bobby McGee di Dennis Joplin, però forse molti non lo sanno o pochi lo sanno, che è il pezzo di Chris Christopherson, quindi un cantautore assolutamente country, un pezzo che lei ha ripreso, rivissuto, praticamente l'ha ricreato come Andy Scott ha ricreato On the Watchtower di Bob Dylan. Certo, quindi, io ho sentito proprio in giorni scorsi Pink anche rifare questo pezzo, molto brava, mi è piaciuta molto la versione anche di Pink, di Me and Bobby McGee. E l'hanno brava, rifatta sì. Veramente in tanti. Sì, Chris Christopherson è un musicista country, è un attore famoso, sì, in America, ha scritto molti pezzi per altri, ha fatto degli album solisti, però il successo l'ha avuto grazie a Jenny Shopley, a questo pezzo che l'ha reso famoso in tutto il mondo praticamente. Lei con la sua voce riusciva a esprimere sofferenza, dolcezza, sì, faceva di tutto, voglia di vivere. Riusciva a dare tutte le espressioni, tutto. Da Woodstock in poi. Davvero. È stata l'esplosione totale a Woodstock, grandissima artista. Okay. Periodo dei figli dei fiori. Periodo dei figli dei fiori. Adesso passiamo, adesso abbiamo ancora qualche minuto, per passare un'altra artista, sì? Veneziana questa qua, sì? Che tu hai scelto una cover di questo pezzo famoso. Sì, perché hai scelto una cover di un'artista che era trasgressiva? Ricordiamo che a 14 anni è scappata e è andata al Pipe a Roma. E lo è ancora trasgressiva, perché si presenta al Festival di Sanremo con la gomma in bocca. Esattamente, molto trasgressiva. Sì, lo fa anche Littizzetto con la gomma in bocca, ma non sì, si sì. Quello lo fa con la Fazio. Però è trasgressiva, Patti Pravo. E ma perché, anzitutto perché è un'altra artista veneta, quindi la sento vicina per la terra da cui viene. E poi perché è sempre stata una trasformista, una grande donna, una donna con un grande fascino, con una grande capacità, una grande eleganza nei movimenti, nel vestirsi, nel parlare. Sempre stata una grande signora lei per me, quindi mi piace. Mi la la ragazza del Piper, era la ragazza del Piper. Diceva in molte interviste che era sul Piper e vicino c'erano i Pink Floyd. Ma cosa suonate? Diceva i Pink Floyd. E loro lentamente si sono messi da una parte, erano i Pink Floyd. E al Piper ha suonato Jimi Hendrix, ha suonato Bob Dylan. Quindi tu, Claudio, lo sai benissimo. Hendrix andava a Roma delle volte apposta, uscivano una volta con Gianni Buoncompagni. Esattamente, che era il nato scopritore di Patti, tra parentesi. Erano loro tre in macchina con una 500 e nei pressi del Colosseo sono stati fermati dai carabinieri, chiaramente, e hanno aperto i finestrini, è uscita una nuvola di di qualcosa. Ecco, e ma era l'auto che inquinava e i carabinieri hanno detto vabbè, andate, perché no. Ok, benissimo. Poi c'è un altro episodio che citeremo dopo, sempre su questo discorso. Sì, sentiamo questo pezzo allora. Ok, Pensiero stupendo di Patti Pravo. Pezzo famosissimo. Blu Radio Veneto Rock. E tu e noi e lei, tra noi vorrei, ma so che lei non ho le mani, le sue. Pensiero stupendo nasce un poco strisciando, si potrebbe trattare di bisogno d'amore, meglio non dire. E tu e noi e lei, fra noi vorrei, vorrei, e lei adesso sa che vorrei le mani, le sue, o prima o poi. Poteva accadere, sai, si può scivolare, se così si può dire, questione di cuore. Oh, pensiero stupendo nasce un poco strisciando, si potrebbe trattare di bisogno d'amore, meglio non dire. E tu e noi e lei, fra noi vorrei, vorrei, e lei adesso sa che vorrei le mani, le sue, e poi un'altra volta noi due. Vorrei per amore, per ridere, dipende da me. E tu ancora e noi, ancora e lei, un'altra volta fra noi. Le mani questa volta sei tu e lei a poco di più, vicini per questione di cuore, se così si può dire. Dirò e tu ancora e noi, ancora e lei, un'altra volta fra noi, fra noi, fra noi. Pensiero stupendo nasce un poco strisciando, si potrebbe trattare di bisogno d'amore, meglio non dire. Blu Radio Rockwave, l'onda del rock. Bravissima Cinzia, questa rivisitazione molto personale. È giusto che sia così, di un pezzo famoso di Patti Pravo. Volevo solo ricordare, c'era un'altra cosa, ti ricordi Claudio, quando venivano anche Mick Jagger e Richard a Roma, un famoso atelier artistico vicino a Fontana di Trevi. È vero. Esattamente, quel famoso pittore che ha fatto un disco solo, rarissimo, che poi è scomparso. Sappiamo, c'era, vabbè, quella è storia, ne parleremo nella puntata che faremo molto con Vannuccio, con il progressive e quegli anni 60. Abbiamo finito questa cavalcata meravigliosa, questa tua musica, queste due ore praticamente volate, cosa dici? Volate davvero, ma volate in piacevole compagnia e soprattutto si è imparato sempre tantissimo anche stasera ascoltando te, Claudio, ascoltando i brani, perché poi anche i brani ti fanno viaggiare, impari tantissime cose. Sì, ricordiamo Stefano Zarantonello alla chitarra, Cinzia Fontana e Claudio Corradini che ha tirato le fila e che è il produttore di tutto. Sì. È l'album Fotosintesi. È l'album Fotosintesi che uscirà nei negozi nel 2010, ma possiamo trovarlo via internet. Sì. Esattamente. Con tutti gli store digitali. E con tutti gli store digitali. Grazie a Michele Toson che ha curato la regia. Grazie. Fondamentale. Grazie. Prossima settimana avremo un gruppo di Verona, gli Home, presenteranno il loro disco nuovo. Dovevo stringersi, salutiamo tutti quanti e terminiamo con una cosa meravigliosa, un omaggio al grande maestro Franco okay. Battiato. Cucuru cucu. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Buonanotte. Blu Radio Veneto Rock. Le serenate all'istituto magistrale, nell'ora di ginnastica o di religione, per carnevale suonavo sopra i carri in maschera, avevo già la luna e Urano nel leone, il mare nel cassetto, le mille bolle blu. Da quando sei andata via non esisto più. Il mondo è grigio, il mondo è blu, cucurù cucù, paloma, ai ai ai ai ai, cantava, cucurù cucù cucù cucù, paloma, ai ai ai ai ai ai, ai, ai, ai, cantava. L'ira funesta dei profughi afghani che dal confine si spostarono nell'Iran. Cantami, oh diva, dei pelle rossa americani, le gesta erotiche di scuopelle di luna, le penne stilografiche con l'inchiostro blu, la barba col rasoio elettrico, non la faccio più. Il mondo è grigio, il mondo è blu, cucurù cucù, paloma, ai ai ai ai ai, cantava, cucurù cucù cucù cucù, paloma, ai ai ai ai ai ai ai, ai, cantava, oh, oh, Lady Madonna, I can try with a little help from my friends, oh, oh, goodbye Ruby Tuesday, come on baby, let's twist again. Once upon the time you dress so fine, Mary, like just a woman, like a Rolling Stone. Rockwave, l'onda del rock.